9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori. A cosa dedichiamo il tema di questa puntata? A un punto su, visto che siamo verso fine anno, l'effetto degli incentivi nel settore dell'auto. Gli incentivi che hanno finalizzato al rinnovo del parco automobilistico italiano con fini dichiaratamente ecologici, cioè di diminuire l'emissione media di CO2 del parco di vetture acquisite in cambio di rottamazione di vetture di matricolazione vecchia, di fare un punto di quanto ha prodotto questa misura, che ricordo è stata adottata nel febbraio del 2009 e quindi volge al termine tra pochi giorni, come sentite del resto dal giusto e legittimo martellare delle comunicazioni pubblicitarie che intervallano le nostre trasmissioni, che vi invitano ad approfittare prima dello spirare degli effetti degli incentivi per comprare nuove auto. Qual è stato l'effetto sul mercato? Che cosa bisogna immaginare per l'anno prossimo? Viviamo in un anno che ha visto il settore dell'auto interessato da provvedimenti analoghi in tutti i grandi paesi europei, lo ricordo, anzi altri grandi paesi europei hanno fatto anche interventi di capitale pubblico nel capitale delle aziende automobilistiche, questo almeno in Italia ce lo siamo risparmiato. In Francia per esempio più di 4 miliardi di euro di denaro pubblico sono andati ai produttori francesi in cambio di impegni naturalmente a difendere la produzione nei paesi francesi, in Francia scusatemi, perché mentre in altri settori la crisi di quest'anno dopo Lehman Brothers è una crisi quasi unicamente da diminuita domanda, nel caso dell'automobile è diverso, perché come sanno tutti gli esperti e gli addetti ai lavori siamo in presenza di una fisiologica sovraccapacità del settore in tutto il mondo e comunque anche in Europa, valutata intorno a oltre il 30%, e quindi il problema sarebbe quello per l'industria automobilistica di, tra virgolette, approfittare di questo evento negativo, cioè una crisi molto forte dei volumi che si aggiunge però a una sovracapacità di volumi nell'ordine del 30-35% per razionalizzare, fare il balzo in avanti verso le nuove tecnologie e contemporaneamente quindi razionalizzare anche la base produttiva, cosa che però tutti i paesi nazionali tendono a non voler fare, tendono a dire dovete tenere aperti tutti gli stabilimenti, dovete tenere aperti tutti la filiera e l'indotto fino all'ultimo posto. Comunque tentiamo di fare il punto su gli incentivi anche per l'anno prossimo. La richiesta è sul tavolo, il governo ha fatto chiaramente capire che con un apposito decreto a gennaio provvederà al rinnovo, anche se bisognerà vedere come questi incentivi saranno tarati nell'anno prossimo. Io mi limito a dire che la stima, ma approfondiremo adesso i numeri, l'effetto sugli autoveicoli aggiuntivi in qualche misura, che comunque hanno beneficiato degli incentivi in questo 2009 e da febbraio a ottobre intorno a poco meno di 800.000, e grazie a questo siamo riusciti e riusciremo a tenere un livello di volume di mercato di 2.100.000 unità vendute quest'anno. Vediamo un po' come sarà l'anno prossimo. Un punto però sul quale da non troppo convinto sostenitore degli incentivi, io sono un liberista, che mi preme sottolineare è che lo Stato in questo si comporta in maniera un po' singolare, perché nel momento nel quale dà incentivi pubblici in molti mercati, negli Stati Uniti poi addirittura interviene con decine e decine di miliardi di dollari nei grandi produttori, più di 50 a General Motors, più di 15 a Chrysler, su cui Fiat fa la sua grande scommessa, è molto singolare vedere poi qual è il bilancio del dare e avere dello Stato sull'auto. Approfondiremo, ma intanto butto lì due cifre, il fatto che nel nostro paese, per esempio, l'acquisto di un'automobile continua a essere gravato da più di 30, sottolineo, 30, 32 per la precisione, atti autorizzativi o amministrativi cartacei, cioè 32 permessi devono essere messi in atto da una parte, dall'altra ci sono più di 20, sottolineo più di 20, tra imposte, tasse e contributi che gravano sull'auto. E quindi, mentre più o meno si può calcolare che si spenderanno un 38 miliardi di euro per acquistare auto nel nostro paese quest'anno, il totale di ciò che lo Stato si prende in imposte, tasse e contributi dall'auto l'anno prossimo si avvia a superare i 65 miliardi di euro. Allora voi capite bene che quando per 38 miliardi di euro di spesa ce ne sono 65 miliardi di tasse, mettendoci dentro tutte le imposte che gravano, dalle accise sulla benzina, che ricordo tutti sono più di mezzo euro al litro, alle imposte di proprietà, ai contributi obbligatori che si pagano oltre all'imposta sul premio RCA e così via, all'IPT, cioè l'imposta provinciale che varia di provincia in provincia, sommandoli fanno più di 20, sono più di 65 miliardi. Allora voi capite bene che la mia domanda diventa: ma perché invece di parlare soldi incentivi non parliamo del fatto che lo Stato dovrebbe abbattere qualche decina di miliardi il prelievo dall'auto? Perché vedete, mentre io abbraccio l'idea che l'auto sia anche un'esternalità negativa, produce traffico, produce inquinamento e così via, basta andare a vedere quanto di quei 65 miliardi lo Stato destina davvero a risolvere i problemi dell'esternalità negativa del traffico, cioè quanti ne investe davvero per risolvere i problemi delle infrastrutture, dei nodi interni ed esterni alle città, quanto ai grandi investimenti infrastrutturali nei trasporti viari o di altro tipo per fare trasporto intermodale, non solo su gomma, per capire che quei 65 miliardi, più della metà di quei 65 miliardi, anzi due terzi, non sono affatto destinati a risolvere le esternalità negative del traffico. Allora, in quel caso lo Stato semplicemente prende laddove è più facile prendere, cioè dalle tasche degli automobilisti, e a quel punto con effetto indotto anche con effetti molto negativi su chi le produce le automobili e le vuole vendere. E invece di essere costretto a elemosinare gli incentivi dallo Stato, cioè altri denari dal contribuente, secondo me si potrebbe risolvere la cosa diversamente. Fine del mio pistolotto, che continua a far arrabbiare molti ascoltatori che ritengono che io dovrei invitarmi a presentare gli ospiti, a fare domande. Invece, finché sarà qua, chissà quanto sarà, non sarà così. Mi dispiace per chi protesta, perché penso che i format editoriali debbano variare e non essere tutti uguali. Allora, gli ospiti di oggi con cui approfondiamo i temi sommariamente introdotti nel mio squilibrato pistolotto. Abbiamo innanzitutto Loris Casadei, buongiorno. Buongiorno. Il presidente dell'UNRAE, con cui faremo il punto della questione. Poi due osservatori, colleghi giornalisti, ma che molto meglio di me seguono da anni i problemi dell'auto: Claudio Nobis, lunghissimi anni Repubblica, oggi è Libero. Buongiorno Nobis. E Paolo Malagodi, buongiorno Malagodi, che scrive per il Sole 24 Ore. Buongiorno professor. E poi il sottosegretario Stefano Saglia, che ci raggiungerà dopo, perché è una voce del governo, per capire qual è davvero l'intenzione. Ecco, iniziamo con Casadei, presidente dell'UNRAE, a fare un pochino il punto aggiuntivo. Il giudizio, l'UNRAE è l'associazione che unisce i produttori, le case estere che operano sul mercato italiano, quindi stiamo parlando più o meno di due terzi del mercato italiano. Voi vi augurate naturalmente che gli incentivi restino anche l'anno prossimo, perché nella vostra stima altrimenti il mercato va giù, come sarebbe andato tragicamente giù quest'anno. Ma innanzitutto credo che dovremmo dare una valutazione dell'impatto degli incentivi sull'anno corrente, e i risultati sono sicuramente positivi. Sono state incentivate circa 700.000 vetture, di cui, e questo è il primo dato interessante, quasi il 50% sono vetture a basso impatto ambientale, quindi un'acquisizione di vetture con carburanti che sono considerati, forse in realtà a torto, su questo magari se abbiamo tempo ne affronteremo il tema dopo, con un'emissione di CO2 ridotta, quale il GPL e il metano. Anche le altre vetture, le rimanenti vetture, in realtà rappresentano un contributo in questo senso, perché si è verificato un episodio dovuto prevalentemente alla crisi economica, ovviamente, che è di downsizing, quindi di acquisto di vetture e sostituzione vetture con cilindrata ridotta, che hanno ridotto quello che è il consumo di CO2 per vettura acquistata. Nell'anno scorso si è verificato un calo tra l'8 e il 10% in praticamente tutte le regioni italiane di CO2, di emissioni di CO2 di vetture acquisite. Questo primo dato, diciamo, positivo trova un secondo effetto positivo sull'occupazione, perché noi parliamo ovviamente sempre di impianti produttivi, perché è più facile il calcolo, e anche perché vi è una compattezza operaia sindacale che ha un effetto maggiore sull'opinione pubblica, ma dimentichiamo sempre di calcolare quello che possono essere i danni occupazionali nel settore dei servizi e nel settore della distribuzione. solo guardando il settore dell'autovettura estere, le officine e i concessionari autorizzati rappresentano in Italia un senza indotto circa 100.000 unità di persone impiegate. Il fatto di aver potuto mantenere sostanzialmente o rendere stabile il mercato di 2.100.000 vetture, e senza gli incentivi sarebbe stato dichiaratamente, vediamo anche poi le prove, meno di 1.800.000, ha prodotto il fatto che si è riuscito in qualche modo a contenere l'uscita di manodopera da un settore che avrebbe prodotto gravi squilibri anche dal punto di vista occupazionale. Mi riflettevo sulla chiara evidenza dell'effetto degli incentivi, perché se guardiamo i dati di gennaio e di febbraio, il calo del mercato è stato spaventoso, è stato un calo del 28%, e la ripresa nel secondo semestre è dovuto fondamentalmente agli incentivi, non tanto per il valore adesso applicato di risparmio per gli utenti, per i consumatori finali, quanto proprio di sostegno anche psicologico all'acquisto. Non dimentichiamo che a fianco degli incentivi statali le case, proprio per necessità di tempi di adeguamento della produzione, hanno emesso uno sforzo finanziario nel prezzo delle vetture nuove, che è molto di più, è quasi il doppio se non il triplo del valore degli incentivi statali. E questo, un'evidenza ancora di questo è, se guardiamo il prezzo delle auto medio rispetto al costo della vita, il prezzo delle auto si è abbassato, il gap di differenziale tra costo medio della vita e valore delle auto si è abbassato mediamente del 10% in più rispetto al costo della vita. Quindi gli incentivi hanno sicuramente rappresentato un aiuto di tipo congiunturale per l'anno in corso. Per il prossimo anno noi riteniamo che gli incentivi siano un po' un falso problema, quindi condividiamo anche il punto di vista che lei ha espresso inizialmente. Riteniamo che sia necessaria un'uscita morbida, un exit strategy da questa situazione, perché la crisi è ancora forte, il consumatore finale non va disturbato da un punto di vista psicologico, quindi vedremo, magari su valori diversi, ma vedremo un ripetersi di questa strategia di incentivi, proprio per non avere squilibri che si sono verificati in altri paesi europei all'uscita dagli incentivi statali. Però è sicuramente un falso problema, perché il vero problema dell'auto è una ripresa strategica su quello che vuole essere il futuro dell'auto, e soprattutto una chiara rivisitazione di tutto il settore della fiscalità e della normativa sull'auto, per adeguare l'Italia, che è ancora in una situazione qui medioevale, a quella degli altri paesi europei. Presidente, le faccio un paio di domande di quelle che vengono immediatamente dagli sms, dagli ascoltatori, di quelle un po', insomma, non troppo per addetti ai lavori, ma che però, insomma, hanno un certo effetto poi nell'orientare l'opinione pubblica. Prima osservazione, molti sms dicono: ma perché dare gli incentivi al contribuente italiano per automobili prodotte all'estero? E la gente molto spesso ragiona così, e innanzitutto applica poi questo, perché gli esempi qua sono per le Fiat prodotte in Polonia, però naturalmente vale anche per tutte le case che lei rappresenta. Quindi prima questione, le chiedo di spiegare, perché poi il mercato non è proprio una roba in cui abbiamo il bollino di produzione nazionale, però per molti questa è un'obiezione. La seconda obiezione è: ma perché dover incentivare l'acquisto di centinaia di migliaia di veicoli nuovi, quando per produrli si consuma molto probabilmente più CO2 di quella che non emette la mera circolazione di quelli vecchi? Questa è un'obiezione un pochino più intelligente, anch'essa secondo me infondata, però le giro entrambe queste osservazioni. Ho due osservazioni molto comprensibili, degne di essere, di avere attenzione per un ampio dibattito. Sul primo punto la risposta è che un aiuto al mercato dell'auto è stato concordato a livello europeo fra tutti i maggiori paesi europei. Forse il pubblico se ne è dimenticato, ma agli inizi dell'anno vi è stata ampia discussione tra tutti i maggiori paesi europei per decidere cosa fare. Il governo italiano ha anche espresso una propria opinione, che si sarebbe mosso in sintonia con quelle che erano la decisione della maggioranza dei paesi europei, e alla fine vi è stata una decisione, credo molto giusta, di aiutare tutti insieme questo settore che, come lei giustamente ha evidenziato di nuovo nella sua introduzione iniziale, è un settore che produce delle entrate fiscali dirette e indirette, accise sulla benzina, IVA delle vetture, importantissimo per lo Stato italiano, importantissimo, e che non vengono, come lei ha detto, assolutamente riversate nel settore dell'auto. Quindi è un sostegno in qualche modo voluto anche per mantenere continuare a mantenere elevato il prelievo fiscale sul settore delle auto. Pronto? Sì, sì, sì. No, questo io sono molto d'accordo con questa sua osservazione finale. In realtà allo Stato conviene dare gli incentivi, perché così prende praticamente un quinto del suo prelievo ed è più sicuro di continuare a prenderlo un quinto del suo prelievo. Questo mi sembra un meccanismo un po' diverso da quello che viene dichiarato, ecco, quantomeno. Sì. C'è un altro aspetto interessante che io finora non ho visto commentare, e se interviene il rappresentante del governo sarebbe interessante avere una sua riflessione a proposito, e cioè che lo Stato, che fondamentalmente nasce da un'esperienza ottocentesca e quindi ha un suo modo di ragionare codificato, non opera come un'azienda. Nel prendere decisioni, un'azienda fondamentalmente sviluppa un business case, nel senso che vi è un investimento da fare, un'attività da intraprendere, viene presa una decisione sulla base di quelli che sono i ricavi aspettati e i costi che vengono da questo progetto. Se vi è un'ipotesi positiva di risultato, si decide di procedere in questo investimento perché si attendono degli utili che siano ovviamente nuovi rispetto alla situazione attuale. Lo Stato italiano, questo ragionamento noi l'abbiamo verificato più volte, ma direi forse tutti, la maggior parte degli stati, perlomeno del continente europeo, non lo può accettare, perché per una serie di regolamenti interni e anche di abitudine e anche di, fra virgolette, poco coraggio imprenditoriale, non può intraprendere investimenti o riduzione di spese, anche se sono attesi dei ricavi maggiori che coprono queste i costi di questa attività, se i ricavi non sono certi, che non possono essere per un'attività futura. Eh sì, questo... però vede, Presidente Casadei, io l'ho fatta parlare a lungo perché su questo tesi per cui lo Stato è intrinsecamente inefficiente io sono minoritariamente molto convinto di questo. Naturalmente molti lo obietterebbero, ma infatti lo Stato non è e non deve essere un'azienda. Io dico che siccome poi amministra i soldi dei contribuenti, i criteri con cui amministra i soldi dei contribuenti dovrebbero essere il più possibile vicini a quelli dei budget invece di un'azienda. Io non intendo assimilare le questioni di fondo della politica e le priorità che per visione culturale o politica appunto si possono avere delle priorità a cui rivolgere l'utilizzo dei beni pubblici indisponibili e delle risorse necessarie per gestirli, ma il problema è che le risorse pubbliche, quelle nostre, dei contribuenti, vengono gestite in maniera invece, secondo me, perfettamente descritta dal Presidente Casadei. Ecco, ci ha raggiunto il sottosegretario Stefano Saglia, poi la seconda parte della trasmissione la facciamo con i colleghi per dibattere un po' i punti critici degli incentivi, ma intanto la parola al sottosegretario. Innanzitutto, perché la interromperò tra breve e poi ricominciamo perché ci sono comunicazioni pubblicitarie, il governo ci può dare conferma, si può essere ragionevolmente sicuri che a gennaio c'è la conferma degli incentivi, ma sono uguali a quelli di quest'anno o in qualche maniera diversi per importo totale o perché sono mirati in maniera diversa, sottosegretario? No, noi stiamo lavorando ad un provvedimento che è il decreto sviluppo di gennaio, all'interno del quale entreranno alcune misure che riguardano la sollecitazione alla domanda, fra queste la principale è quella relativa agli autoveicoli, e stiamo lavorando ad un atterraggio morbido, nel senso che, diciamo, la cosiddetta rottamazione o comunque il contributo alla domanda di veicoli porta in con sé una droga, nel senso che il mercato ovviamente ha delle conseguenze da queste decisioni particolarmente rilevanti, quindi saranno degli incentivi meno generosi rispetto all'anno in corso e che saranno orientati quasi esclusivamente alle vetture con carburanti, diciamo, meno inquinanti, metano GPL e diciamo dei dispositivi delle auto meno inquinanti. Lei sa, sottosegretario, che il riferimento implicito che ha fatto il presidente prima al metano è perché, insomma, siete un po' tra virgolette sospettati di avere un occhio preferenziale, visto che qui di metano lo fa solo la Fiat in Italia. Ma guardi, non c'è una volontà di privilegiare qualcuno o qualcun altro, il punto è che noi per incentivare il metano dobbiamo fare un piano che io ho presentato già in Parlamento relativo all'aumento dei punti di distribuzione. Oggi il GPL è più diffuso, il metano lo è di meno a causa appunto della mancanza di punti di distribuzione, perché uno non compra macchine se poi non può fare il rifornimento, e quindi la nostra attività è quella di rendere meno oneroso da un punto di vista burocratico, normativo, la realizzazione di questi impianti, facendo in modo che sia più diffuso sul territorio, senza far venire meno ovviamente il sostegno finanziario e fiscale al GPL, ma con la volontà di cercare di allineare queste due modalità, sempre nell'ottica dell'ambiente, perché poi ci dimentichiamo che anche se ha fallito Copenaghen abbiamo degli obblighi nella emissione di CO2 che dobbiamo rispettare e che sono sicuramente utili alla salute dei cittadini, ma poi consentono anche di avere un'innovazione tecnologica nel campo delle case automobilistiche, che sono tra le imprese, diciamo, che fanno più ricerca in assoluto rispetto ad altri settori. Ora partono le informazioni pubblicitarie, poi riprendiamo con due punti scoperti. Chiediamo al sottosegretario, le aziende si possono aspettare una estensione della Tramonti-Ter anche agli autoveicoli commerciali, quelli che servono per le aziende e che invece ne sono stati esclusi, come quelli industriali, e entrambe queste componenti hanno un segno fortemente negativo nel 2009, e ci possiamo aspettare tra l'altro una modifica dei tetti di deducibilità fiscale, che nel nostro paese rispetto a tutti gli altri grandi paesi europei concorrenti sono molto più bassi, perché gli altri hanno 100% di deducibilità sia dell'IVA che a fine di ammortizzazione del valore di acquisto, noi abbiamo il 40% entro un tetto massimo di 18.000 euro e il 40% di deducibilità solo per l'IVA. Anche questo significa meno flotte societarie e invece più traffico privato, quindi l'effetto opposto a quello che bisognerebbe garantire per avere anche meno traffico e meno emissioni. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando degli incentivi all'anno auto e di verificare con il sottosegretario Saglia, ci eravamo interrotti sulla domanda che gli abbiamo fatto, se oltre ci ha spiegato andiamo verso un dimagrimento, cioè verso un exit strategy dalla droga che rappresentano gli incentivi al mercato, e io mi sono permesso di chiedere se ci possiamo aspettare, a suo giudizio, anche se non è il ministro Tremonti, ma insomma un'estensione della Tremonti-Ter, bene strumentale di impresa essenziali come sono le flotte societarie, che invece sono state escluse fino a questo momento dalla Tremonti-Ter, e poi oltretutto una considerazione sul fatto che la minore deducibilità riservata ancora una volta alle auto per le aziende rispetto ai nostri grandi concorrenti europei significa meno flotte societarie. Infatti il componente del mercato in cui soffre di più, alcuni anche in quel caso pensano che soffra di più quel segmento del mercato, perché quello in cui la Fiat poi c'ha meno veicoli, adesso questa è battuta mia, però l'essenziale è che così l'effetto è che in questo 2009 con ogni probabilità la media di acquirenti privati sul totale del mercato italiano sarà di 7-8 punti superiore di famiglie rispetto alle imprese, sono sempre private anch'esse, di quanto non siano gli altri paesi europei, appunto perché noi abbiamo misure fiscali che disincentivano le aziende a estendere o a investire nelle proprie flotte societarie, perché sono più onerose, molto più onerose di quanto non siano gli altri paesi. Prego, sottosegretario. Ma innanzitutto credo che dal punto di vista fiscale oggi non ci siano ancora le condizioni, diciamo, sulla tenuta dei conti pubblici che ci consentano di fare misure significative e strutturali. Il ministro Tremonti fa un mestiere difficile, quindi noi li spendiamo, lui li deve raccogliere, quindi credo che questa domanda sicuramente andrebbe girata a lui. Voglio dire però che sul tema delle flotte e dei veicoli commerciali stiamo ragionando. Mi collego a una discussione che faceva prima, cioè il fatto che la Ragioneria Generale dello Stato, insomma l'apparato statale, non considera le future entrate, considera solo e contabilizza in previsione solamente le future uscite, quindi questo meccanismo è abbastanza perverso, nel senso che appunto non si tiene conto che poi tornerà dell'IVA, torneranno delle imposte che dovrebbero rendono più leggero l'impatto delle misure necessarie a sostenere questi settori. No, altro sottosegretario, non è che rendono più leggero, lo moltiplicano. Ripeto, se io sommo l'IVA che è dovuta su carburanti lubrificanti, quella sull'acquisto veicoli e accessori, quella sulla manutenzione dei pneumatici, le tasse sull'RCA, l'IVA sui pedaggi, quest'anno farà 64 rotti miliardi, cioè il fine 2009, e l'anno prossimo superiamo i 65 rotti, quindi stiamo parlando di una cifra incommensurabile, non rispetto agli incentivi. Stiamo parlando di una cifra incommensurabile rispetto a tutto quello che lo Stato riserva a risolvere le esternalità negative del traffico, dell'infrastruttura, eccetera, eccetera. E questo è il punto che a chi si trova in condizione di dover acquisire o meno un'automobile dice: però lo Stato si piglia molto in cambio di quello che chi mi offre in cambio. Lo so, però da un punto di vista della, diciamo, proposta all'interno del bilancio dello Stato, queste sono le regole che a livello europeo vigono e che in Italia si applicano con un certo rigore, quindi fino a che non riformeremo queste modalità, questo è il metodo con il quale si fanno i calcoli, con il quale si lavora. Sui veicoli commerciali sono molto d'accordo, anche perché è un aiuto indiretto comunque anche al sistema delle piccole e medie imprese, all'artigianato, a tutti coloro che lavorano con questi mezzi, e quindi su questo punto stiamo cercando di trovare una soluzione per poterli introdurre, visto che comunque il nostro sarà un provvedimento di sollecitazione alla domanda su vari settori. Ci sarà anche per gli elettrodomestici ad alto rendimento energetico e ad altre, diciamo, produzioni dove è preponderante o comunque è significativa la produzione nazionale. D'altro canto non è un peccato che noi facciamo, nel rispetto delle regole europee, una politica di questo genere, perché dobbiamo sostenere anche l'occupazione del nostro paese. No, per carità. Malagodi e Nobis, tentiamo di vedere un pochino dal punto di vista di osservatori specializzati come siete voi che cosa forse ha funzionato di meno, ecco, negli incentivi, o si poteva immaginare che funzionasse meglio o che si può proporre, visto che il governo sta rivedendo le norme e sta effettuando questa exit strategy un pochino, quindi, di alleggerimento, per suggerire alcune delle cose che secondo voi hanno funzionato meno. Cominciamo con Malagodi. Che cosa suggeriresti al governo di mettere più a punto rispetto al regime di quest'anno? Ma certamente una equiparazione degli incentivi dati a soggetti privati, dati a società quali quelle di noleggio, che immettono sul mercato veicoli destinati alla lunga percorrenza, perché è paradossale che compri una vettura GPL, la signora che, dando in permuta una Panda da rottamare, ha percorso in 20 anni circa 60.000 km, 3.000 km l'anno, perché tanto il GPL non lo pagherà, ma continuerà a percorrere i suoi 3.000 km in ambito cittadino, avendo il marito un'altra vettura, i figli altre vetture, mentre non si utilizzi l'incentivo sul GPL o sul metano per le flotte aziendali che normalmente percorrono ogni vettura tra i 30 e i 40.000 km, quindi questo è un primo indirizzo che certamente va portato a destinazione con una missiva precisa che metta i soggetti aziendali, in particolare le società di noleggio, in condizione di immatricolare in termini competitivi, perché oggi una società di noleggio che fornisca a un terzo una vettura non può darla col contributo statale né sul GPL né sul metano, che significa non presentare un'offerta valida. Ecco, sono molto d'accordo, e ci aggiungo un'altra idea: l'abolizione dell'attuale regime della tassa di proprietà che io devo pagare a prescindere che usi o meno il veicolo, visto che la tecnologia oggi ci consente, con un chip inserito nell'automobile, non solo di sostituire con il chip tutto ciò che riguarda gli adempimenti amministrativi e burocratici per quello che riguarda la conformità, la proprietà del veicolo, la somma per esempio di tutte le sanzioni del proprietario in termini di multe, punti patente in meno, eccetera eccetera, tutto già tecnologizzato, ma anche consente, per chi non lo ritenesse un eccesso troppo orwelliano, di pagare l'utilizzo del mezzo, quindi l'esternalità negativa rappresentata dal traffico sviluppato col suo utilizzo, perché col chip si può, con un sistema GPS banalissimo, totalizzare l'utilizzo del veicolo stesso e quindi pagare una vera tassa piguviana, cioè sull'esternalità negativa, in proporzione al suo utilizzo stesso, cioè il pay per use. Perché non farlo? Perché è troppo avanzato tecnologicamente? No, tecnologicamente si può fare. Certo, per lo Stato è molto più comodo dire: me la paghi comunque anche se sta ferma, però secondo me è profondamente ingiusto. Claudio Nobis, altri suggerimenti invece su ciò che non ha funzionato e ciò che potrebbe andare meglio, visto che bisogna mirarle di più questi incentivi? Certo, ma io mi volevo riagganciare a quello che hai appena finito di dire. Si parla di pay per use come per la televisione, ma in Italia noi molti anni fa abbiamo fatto un passo indietro, perché la tassa sull'automobile era tassa di circolazione, e quindi 20 anni fa già si era un po' più vicini al concetto di pagare per l'uso, se la tenevi in garage non pagavi, dopodiché lo Stato si è inventato di farla diventare tassa di proprietà come un immobile. La cosa che io ho sempre combattuto e trovato sempre abbastanza folle è che l'automobile sia definita dal codice civile come un bene mobile registrato, quindi con tutte quelle conseguenze che derivano e portano alla burocratizzazione che ha indicato all'inizio della trasmissione. Cioè, qui in Italia abbiamo un'impostazione assolutamente davvero feudale, come dice Casadei. Tra l'altro, parliamo di incentivi, cosa funziona, cosa non funziona. Secondo me non funziona quasi niente, perché intanto non è chiaro, è un'incentivazione caotica come al solito, non si capisce cos'è che si deve veramente incentivare. La produzione, quindi l'occupazione, la diminuzione della CO2, semplicemente il consumo anche da parte del pubblico collegato alla produzione, il rinnovamento del parco circolante. Adesso, per esempio, nelle richieste, meno male che c'è il rappresentante del governo, la segnalazione del settore automobilistico, io faccio da cronista, però quando sento delle cose giuste le ascolto, 13.700.000 automobili che Euro 0, Euro 1, Euro 2 attualmente sarebbero il bacino su cui, con cui confrontarsi per vedere di operare un rinnovamento nell'ambito del parco. Il parco vecchio non solo consuma, ma è anche pericoloso, porta a tutta una serie di conseguenze evidenti. 13.700.000 macchine sono poco meno della metà del parco circolante. Purtroppo l'Automobile Club d'Italia non è neanche mai stato in grado di definire con precisione l'ammontare del parco circolante, ma insomma possiamo dire che noi abbiamo un'età media circolante dell'ordine dei 15 anni, che è abbastanza pazzesco. Allora, a questo punto, con la crisi si è arrivati a una forma di isteria, l'accordo internazionale, ma poi, come vediamo, Germania e Francia, che sono i due grandi mercati insieme all'Italia, in coda. Italia, l'Inghilterra è un altro grande mercato, però Inghilterra e Spagna ci hanno pensato su a lungo e infatti i risultati non ci sono stati. In Germania quest'anno si chiuderà un mercato a 3.700.000 unità, che è una cosa veramente enorme, perché gli incentivi hanno avuto, almeno giusto o sbagliato che sia, hanno avuto una finalizzazione molto precisa: far crescere il mercato, far continuare il giro. Ci sono 5 aziende automobilistiche in Germania, e quindi almeno, ripeto, si può immaginare una certa coerenza. Io invece ho la sensazione che in Italia, insomma, abbiamo fatto le cose sempre un po' di qua, un po' di là, un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Ho capito, e su questo riprenderemo, perché la domanda è se a questo punto la forza, diciamo, dell'incambio, del produttore italiano, che fa un suo terzo di mercato italiano, si è ripreso, per carità, è impegnato in questa grande scommessa americana, è una forza troppo bassa rispetto a quella che negli altri mercati nazionali e europei, esercitata dai grandi gruppi produttori nazionali, che magari ottengono quell'orientamento degli incentivi esattamente all'obiettivo tedesco, quello che ci ricordava Claudio Nobis adesso, o se invece non è troppo poco forte, ma secondo me troppo forte comunque rispetto a chi prende poi queste decisioni. Eccoci tornati in studio per quest'ultima parte, stiamo parlando degli incentivi. Domanda che rigiro al sottosegretario Saglia, naturalmente non gliela faccio cattiva come era all'inizio, perché non voglio creare imbarazzo alla componente del governo e a dire se la Fiat conti troppo poco o molto, però il sottosegretario sa benissimo che, come testimoniato anche stamattina che ci occupiamo di questo tema, da una raffica di SMS, molti cittadini dicono, quando poi si ripropone la scelta di termini chiusa, termini aperta, per esempio al termine merese sto parlando, dice: ma in realtà di quanto costa a noi l'incentivo, che viene naturalmente utilizzato per un terzo più o meno dalla casa produttrice nazionale, poi ci sono tutte le case concorrenti per fortuna anche, però molti osservano noi paghiamo di tasca nostra per l'incentivo più o meno quanto, se non di più, molto di più, di quanto la Fiat dice che poi costa di più produrre a Termini Imerese. E allora, agli occhi di molti, l'operazione incentivo appare come un'operazione a perdere piuttosto che di vantaggio nazionale. E quindi questo tipo di obiezione, lei lo sa, è un'obiezione molto forte, cioè non stiamo parlando semplicemente dei siciliani che dipendono dal loro posto di lavoro. Come si risponde, sottosegretario, a questa obiezione? Intanto il ministro Scajola ha fatto una pressione enorme nei confronti della Fiat perché non si abbandonino gli stabilimenti di Termini e di Pomigliano d'Arco, che è una cosa legittima, perché in un tempo di crisi il governo deve occuparsi anche di quello che sono le ricadute sociali di una produzione, di un'attività. Se però mi tolgo un attimo dal ruolo, diciamo, di governo in Italia, devo dire che le case automobilistiche in Europa hanno bisogno di una Commissione europea che stabilisca un piano per la razionalizzazione della produzione in Europa. Noi oggi abbiamo una sovracapacità di produzione di auto, che possiamo, è un appuntamento col quale prima o poi ci dovremo confrontare. Noi produciamo 70 milioni di auto e se ne vendono 50 milioni, è un problema che riguarda la Germania, la Francia, tutti i paesi. Quindi noi facciamo bene, fa benissimo il ministro Scajola, a insistere con la Fiat che anche Termini non deve chiudere, ma anche qui ci vuole una exit strategy che non può essere ovviamente determinata da un governo nazionale, ma che deve essere una decisione europea. Penso come purtroppo si fece con toni anche drammatici quando si fece la razionalizzazione del sistema siderurgico europeo, quando cioè ci si rese conto che le milioni di tonnellate che si producevano erano superiori rispetto a quello che poteva percepire il mercato. Quindi queste sono cose che vanno fatte nell'ottica della politica europea, come l'armonizzazione degli incentivi è fatta a livello europeo. Non è che sì, c'è qualche differenza rispetto all'intervento dei singoli governi, e ripeto, se non sono aiuti di Stato non è illegittimo orientarli verso quelle che possono essere le produzioni che hanno occupazione in Italia, specie in un tempo di crisi come questo dove il tema del lavoro è tornato al centro. Presidente Casadei, lei che rappresenta appunto i produttori esteri che operano sul mercato italiano, secondo lei siamo più vicini o più lontani con la crisi da un vero piano europeo di coordinamento della produzione con volumi e capacità adeguate da una parte a quello che chiede il mercato, dall'altra per poter avere anche poi intensità di capitale di investimenti futuri per reggere poi sulla gara mondiale? Qui stiamo parlando di essere in grado di vincere la gara per mercati che diventeranno quelli che assorbiranno milioni e milioni e milioni di veicoli nel prossimo futuro. Io ricordo tutti che chiudiamo l'anno con la Cina, che è diventato il primo mercato mondiale e sta andando a botte di 1.200.000 veicoli al mese, quindi batte gli Stati Uniti di un'enormità. Gli Stati Uniti erano dai 16-17 milioni, sono scesi ai 10-11 di proiezione di quest'anno. Ecco, siamo più vicini o più lontani da quel piano europeo, che anche secondo me dovrebbe essere un approdo serio per fare consentire a tutti gli operatori di razionalizzare senza doversi difendere a quel punto dalle pressioni delle opinioni pubbliche nazionali che dicono ti diamo in cambio del fatto che tu non fai un posto di lavoro in meno? Lei che dice, Presidente Casadei? È una domanda un po' strana posta da un economista liberista quale lei è. Ma purtroppo io devo ragionare con i paesi comunque che non sono affatto liberisti. Io credo che da questo punto di vista non vi sia una concertazione fra gli Stati europei. Credo che in questo momento l'emergenza di ogni Stato europeo sia quello di difendere i propri investimenti produttivi e la propria forza lavoro occupata, il livello di occupazione. L'emergenza è questa. Per l'Italia vi è un doppio problema che vorrei sottolineare. Noi ci aspettiamo sempre che i nostri governi siano il massimo della competenza e della trasparenza. Qui con di nuovo la mia domanda è se esiste, perché non è stato portato all'attenzione dell'opinione pubblica, ma dovrebbe esistere un piano preciso dell'Italia per quello che riguarda tutto l'approvvigionamento energetico. La domanda mi nasce perché se strategicamente l'Italia ha deciso di puntare sul metano, di cui come paese ha una discreta abbondanza, ha un discreto costo di estrazione, io trovo giusto favorire il metano proprio come scelta politica di fonti di approvvigionamento privilegiata per l'Italia. Se invece si parla esclusivamente di emissione di CO2, e qui apro una parentesi, se è giusto considerare il CO2 come la fonte principale di attenzione per l'inquinamento dannoso per l'uomo. No, io condivido, ma qui siamo in larga minoranza su questo. Quindi. Ma l'altro elemento è che se prendiamo i carburanti che oggi sono in considerazione, quindi benzina, diesel, CPL e metano, e prendiamo una vettura di pari peso a velocità uguale di percorrenza e a chilometri uguali percorsi, in realtà il divario di emissione di CO2 tra questi quattro carburanti è minima. Non c'è dubbio, ma le ripeto, sul metano c'è quell'obiezione che abbiamo detto all'inizio, insomma c'è un sospettino che abbiamo detto all'inizio. Oltretutto io faccio notare che anche in quest'anno il più delle automobili incentivate a metano sono in poche regioni, cioè le uniche che hanno poi gli impianti, per vecchia tradizione di scelta dell'ENI e dello SNAM. Bene, finisce qui la nostra riflessione di oggi. Io ringrazio il presidente Loris Casadei dell'URAI, Claudio Nobis e Paolo Malagò, di colleghi che per Libero e il Sole 24 Ore seguono l'auto, e ringrazio il sottosegretario Stefano Salli. Abbiamo tentato di fare un punto sugli incentivi che vi attendono per l'auto anche nel prossimo anno. A questo punto l'appuntamento è a lunedì, e grazie come sempre a chi in regia ha consentito la trasmissione. 9 in punto, la versione di Oscar.